9 in punto. La politica nel tunnel. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a 9 in punto, l'hashtag su Twitter 9 in punto, oppure scrivete a me se volete, Simone Spezia, mi trovate, oppure chiamate l'800 24 00 24. Oggi restiamo sul tema che fa da sottotitolo in questo periodo alla nostra trasmissione, ossia appunto la politica nel tunnel, le difficoltà a questo punto di formare un nuovo governo. È il 5 di marzo, oggi. E quello, mancano pochi giorni a quello che dovrebbe essere l'insediamento delle Camere. Insediamento delle Camere che forse sarà anticipato, anche se non c'è nulla di chiaro, l'abbiamo già raccontato ieri. Potrebbe essere, Napolitano sta decidendo, sta ragionando, potrebbe essere nella giornata di martedì 12, un anticipo che consentirebbe un risparmio di una settimana. Nel frattempo gli affari correnti proseguono, perché finché non ci sarà un nuovo governo, l'attuale governo resterà in carica. Ieri il Presidente del Consiglio Mario Monti ha chiesto un incontro ai principali leader dei partiti, Berlusconi, Bersani e Beppe Grillo, per discutere del Consiglio europeo al quale dovrà partecipare il 14 di marzo. Nel frattempo che cosa succede? Il quadro che ci viene consegnato è: in attesa della direzione del Partito Democratico che si svolgerà domani mattina, sulla quale naturalmente stiamo sono concentrate tutte le attenzioni per capire che cosa succederà anche nel PD, in attesa di quella riunione ci sono due ipotesi ancora in campo, anche se sembra rallentare quella che vedrebbe Bersani alla guida di un esecutivo, e che poi si va a cercare, questa l'ipotesi al momento del segretario del PD, quella che vorrebbe il segretario del PD, e che poi si va a cercare i consensi direttamente in Parlamento su un programma, così ha detto nei giorni scorsi, basato su 8 punti, mentre si avvicina l'ipotesi di un governo terzo, un nuovo governo tecnico, che naturalmente non può essere lo stesso che c'è adesso, oppure chissà, perché insomma sta veramente in questo momento succedendo di tutto, e però insomma avanza l'ipotesi di un nuovo governo tecnico che possa traghettare il paese, evidentemente fino ad una nuova tornata elettorale, magari approvando una nuova legge elettorale. Di questo parliamo stamattina, naturalmente. Lo ripeto, 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure siamo su Twitter, hashtag 9 in punto. Jacopo Fo, scrittore, attore e regista, buongiorno. Buongiorno. Che ha creato una pagina Facebook insieme a un suo amico, suppongo, di Sinistra Ecologia e Libertà, nella quale pagina Fabio Roggiolani e Faina. Ed è una richiesta al Movimento 5 Stelle di fare un accordo col Partito Democratico, sostanzialmente con SEL, no? Sì, qualcosa di un pochino più complesso, cioè noi crediamo che ci sia una maggioranza degli italiani che ha votato Grillo, Bersani, Ingroia e Vendola, che vogliono la stessa cosa. Sono gente che non si odia tra di loro, sono amici, a volte fanno anche l'amore, a volte fanno anche dei figli insieme, per cui nella società non c'è questa divisione. Nella società ci sono state delle valutazioni diverse su chi poteva portare il cambiamento in modo più efficiente. A questo punto qui io credo che l'Italia non abbia proprio la possibilità di perdere altro tempo. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare è, a fianco dei grandi punti di programma, i costi della politica, le province, eccetera, di cui stanno discutendo i partiti, di tirar fuori una serie di proposte elementari che possono far ripartire l'Italia. Noi abbiamo un problema tragico, e lo sostiene da tempo Confindustria, Confartigianato, eccetera, eccetera, che è quello della burocrazia. Vogliamo finalmente mettere mano alla burocrazia? Vogliamo dire che si parla tanto di diminuire le tasse, ma c'è una tassa nascosta per le piccole e medie aziende che è del 10-15%, che è burocrazia e processi che non funzionano? Allora, noi abbiamo messo insieme delle teste, dei tecnici, e ad esempio su questa cosa qui abbiamo tirato fuori un obiettivo proposto da Marco Marchetti, che è avvocato e consulente della pubblica amministrazione, che dice: noi equipariamo il processo civile, abbiamo milioni di cause sospese e in corso, con il processo del lavoro che ha un meccanismo di funzionamento rapidissimo. Se noi facessimo questa legge di una riga, noi già abbiamo fatto una cosa per le aziende pazzesca, perché io come faccio a aspettare di farmi pagare una fattura 10 anni? Si deve fare in 2 mesi, come succede nel resto dei paesi civili, e via così. Noi possiamo incidere in maniera, con delle leggi elementari che non costano niente, tagliare il sistema, la macchina, riorganizzare la macchina. Senta Fo, queste proposte che evidentemente sono proposte complessive, insomma, no? L'idea di un governo che unisca tutti questi elementi, naturalmente con all'interno anche la gente che lavora in Italia, sì. Perché io voglio trovare un imprenditore che mi dice che questo è sbagliato, lo voglio trovare. No, probabilmente non ce ne sono, ne abbiamo parlato, anzi sicuramente non ce ne sono, ne abbiamo parlato molto spesso a questi microfoni. Non ho capito una cosa, questa sua proposta arriva, come dire, dall'interno del Movimento 5 Stelle, nel senso che lei ha votato Movimento 5 Stelle? Ho fatto campagna elettorale per il SEL, perché mi ero reso conto che c'era proprio il rischio che vincesse Berlusconi e che comunque Vendola poteva avere un ruolo straordinario di mediazione tra il PD e il Movimento 5 Stelle. E io sono convinto che se Bersani, che è quello che ha il potere di farlo perché ha 3.000 voti delle primarie, fa una proposta al Movimento 5 Stelle con gli articoli di legge nelle minuzie su come cambiamo il sistema della macchina Italia e con le date in cui il Parlamento approverà quelle decisioni e si impegna pubblicamente a questo, e fa un esecutivo con non i soliti babbozzi della politica ma delle eccellenze nazionali, perché in questo momento qui noi abbiamo bisogno di eccellenze, perché se no non ne usciamo. Il Movimento 5 Stelle gliela dà la fiducia, e sono stati anche molto chiari, hanno detto: noi non diamo la fiducia a un governo dei partiti. L'hanno ripetuto 6 volte, sottolineando, non nella conferenza stampa di ieri, sottolineando, nessuno ha ascoltato. Che cosa fa la stampa? Va a prendere una dichiarazione di tot anni fa, falsificandola, no? Della Lombardi sul fascismo, che diceva una cosa condivisibile, cioè che all'inizio il fascismo era un'altra cosa e poi ha degenerato, ed era scritto in italiano che chiunque poteva comprenderlo, e io adesso vedo passare sulle pance, no, in televisione, no, la Lombardo, il fascismo ebbe alto senso dello Stato e della famiglia. Questa è la situazione, c'è una situazione di calunnia brutale e di non ascolto del fatto che semplicemente questa gente propone un sistema di democrazia diretta. Il prossimo governo, se vogliono che il Movimento 5 Stelle li appoggi, deve avere una fisionomia diversa. Oggi noi possiamo con internet fare dei gruppi di esperti che facciano da ponte tra il governo, i cittadini e le eccellenze in Italia, e avere per la prima volta una forma di democrazia diretta su cui sulle decisioni la gente possa esprimersi, ci possa essere un sondaggio costante, un dibattito. I governi sono sempre stati chiusi nelle loro torri, sapevano loro come fare. Abbiamo visto dove ci hanno portato, al disastro totale. Ci voglio tornare anche su questa vicenda della Lombardi, Fo, ma prima saluto Roberto Balzani, sindaco di Forlì, che ci ha raggiunto già da qualche minuto. Buongiorno Balzani. Buongiorno. E saluto anche Laura Puppato, che come sapete è stata candidata alle primarie e adesso è componente della direzione nazionale del Partito Democratico. Buongiorno Puppato. Sì, buongiorno, sono componente da sempre della direzione nazionale. Sì, insomma, ho detto adesso, insomma, nel senso. No, perché non è un esito di qualcosa. Allora, Puppato, accordo al Movimento 5 Stelle, c'è chi dice che la strategia del segretario è suicida. Guardi, qui io ascoltavo anche l'intervento dell'interlocutore precedente. C'è un difetto, secondo me, di logica evidente. Quando si vuole indicare una strada, rispetto alle aperture che ci sono state obiettivamente da parte del nostro segretario, e io con tutto il rispetto per la vera democrazia non ne conosco una che possa mettere in campo qualcuno di diverso in questo momento, no, abbiamo scelto appunto con 3.300.000 persone chi è il leader, diciamo, riconosciuto della coalizione. E a lui in questo momento, ripeto, a lui e a nessun altro compete di esprimere la linea del partito. A questo punto, perché non c'è dialogo? Cioè, quello che io non capisco è questo. Se c'è una richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, perché Grillo, tanto per cambiare, dovremmo dirci queste cose, non è in Parlamento, Quindi, Movimento 5 Stelle, rappresentato, diciamo, da Grillo, perché quello è la figura che identificano come proprio leader. Bene, proponga, esprima, chieda, ci dica esattamente su quali percorsi, con quali modalità, con quali scelte intende procedere. Perché vede, se noi stiamo qui per giornate intere ad interpretare il pensiero, evidentemente questo pensiero chiaro, così chiaro, non è. Evidentemente questo pensiero è anche un pensiero contraddittorio, un po' brutale, magari anche offensivo in alcuni momenti, ma abbiamo detto che superiamo perché c'è un tema enorme sul tavolo oggi, no? Ed è il tema Italia, no? Dobbiamo pensare al governo di questo paese. Allora, la democrazia diretta, come la si chiama, è una democrazia sulla quale io, che forse sono la più grillina di tutto il Partito Democratico, d'accordo? Ho sempre avuto molte perplessità, perché vede, la democrazia diretta che Ma conosco perché io. dice che è la più grillina del Partito Democratico? Cosa intende? Da nel 2007 sono stata premiata come sindaco, primo sindaco a 5 Stelle d'Italia, esattamente da Grillo. Soprattutto, e poi c'è sempre stato un dialogo, voglio dire, lui mi ha sempre citato fino all'altro giorno, insomma, come un'anomalia all'interno del Partito Democratico. Benissimo, io non mi sento un'anomalia all'interno del Partito Democratico, altrimenti, voglio dire, non avrei avuto i riconoscimenti che sto avendo. Però è anche vero che i partiti in parte soffrono di una determinata, come dire, conservazione, d'accordo? Mi pare che le aperture che sono state fatte, ma non in funzione del governo nazionale ora, le aperture che noi abbiamo fatto a partire da quel benedetto 8 ottobre, in cui abbiamo detto che per noi le primarie sono la condizione nella quale poter individuare i nostri parlamentari. Noi portiamo in Parlamento i due terzi di nuovi parlamentari. Noi siamo quasi, come dire, come una nuova forza, quando lei sa che un partito storico di queste dimensioni in Europa non ha mai fatto una cosa del genere. Bene, siccome mi pare di aver dimostrato, che abbiamo dimostrato, che il cambiamento è l'unica strada, ragione per la quale vogliamo dialogare solo con chi il cambiamento ce l'ha come principio, diciamo, costituzionale, che sono appunto il Movimento 5 Sì, Stelle, Puppato, non dialoghiamo in maniera alla luce del sole, aperta, Puppato, trasparente. il ragionamento l'ho capito, però se questi dicono di no, vale la pena prendere una musata di questo genere, ma lo dico per voi, per il partito, insomma, no? Ma io non è, guardi, anche questo è un sistema di vedere le cose che non concepisco corretto, perché cosa vuol dire la musata? Se io dialogo, tento di dialogare con te, se io inserisco i principi costituzionali di democrazia come base, come sistema per riuscire a elaborare insieme, ripeto, un progetto politico per l'Italia, e tu, appunto, secondo questa teoria, mi rispondi picche, anche offendendomi, chi secondo lei è quello che ne trae, diciamo, i maggiori danni dal punto di vista anche della qualità, insomma, dell'interpretazione politica, ma anche dell'interpretazione che la gente ne dà, perché vede, anche solo ascoltando quello che capita in giro, insomma, i vari sondaggi che stanno facendo, non c'è molta convinzione da parte della gente, anche di chi soprattutto ha votato il Movimento 5 Stelle, che la strada che sta oggi perseguendo Grillo, appunto, così confuso, tra l'altro, se mi permette, perché insomma non è molto chiaro quello che lui sta dicendo, non lo è a me, non lo so a voi, insomma, no? Governo tecnico sì, ieri sera, però fino a ieri neanche quello, solo le risposte progettuali e legislative, come se non fossimo in un Parlamento che ha la Costituzione con l'articolo 94 che dice che ci vuole un voto di fiducia, cioè vive in un altro mondo. Se prima non la costruisci questo mondo, non lo puoi fare, d'accordo? Io penso che noi possiamo costruirlo un altro mondo, ma lo dobbiamo costruire sulla base di elementi che questo mondo ci offre. E questo mondo ci offre degli elementi, come dire, che corrispondono appunto a un voto di fiducia, a un costruire insieme una maggioranza, a chiedere delle cose che hanno a che fare con un programma e con delle rappresentanze politiche. Perché non c'è dialogo? La mia domanda è: perché non c'è dialogo e non si apre un dialogo alla luce del sole, senza infingimenti, senza richieste altre, senza nulla che sia preconcetto. Ecco, Roberto, chiarissimo, Roberto Balzani, sindaco di Forlì, è tra quelli che sostanzialmente hanno chiesto la testa del segretario, non mi sbaglio, no? Del Partito Democratico. Io credo che un segretario che perde il suo progetto politico tendenzialmente deve presentarsi dimissionario, ecco, almeno quello credo che sia il minimo sindacale. E lei come la vede l'ipotesi, appunto, insomma, questa linea presa dal segretario in questo momento, da Bersani in questo momento, questa ricerca dell'accordo col Movimento 5 Stelle, oppure la ricerca dei voti in Parlamento, ecco, perché mi sembra più... Dunque, io credo che il Movimento 5 Stelle sia dal punto di vista politologico un classico partito antisistema. Per questo motivo l'accordo col Movimento 5 Stelle dal punto di vista organico è praticamente impossibile, perché non ci sono proprio le condizioni diciamo di praticabilità. Grillo cambierà sempre posizione perché è nel suo interesse accentuare l'elemento competitivo col sistema tradizionale e non attenuarlo, perché naturalmente ne avrebbe un risultato in termini poi elettorali. In questo quadro io credo che l'unica strada per dare un governo al Paese sia quella impossibile, la strada del governissimo di tipo politico, perché ovviamente è impraticabile per il PD, ma anche poi per una parte di Monti sostanzialmente, probabilmente l'unica strada è quella di un esecutivo tecnico con 3-4 cose per poi traguardare il Paese alle elezioni senza lasciarlo andare in un periodo nel quale, non dimentichiamolo, in Germania, proprio guardando a noi, stanno maturando in un ambito moderato, non estremista, posizioni anti-euro, che sono pericolosissime. Per cui noi, se vogliamo dare un segnale di rassicurazione all'Europa, una scelta la dobbiamo fare subito, molto rapidamente, su alcune poche cose sulle quali portate avanti da persone nelle quali, diciamo, ci sia una, sulle quali ci sia un consenso, e probabilmente con il Presidente della Repubblica giocare ancora una posizione pivotale. Questo il punto, secondo una delle voci del Partito Democratico, una tra le tante naturalmente, posizioni espresse tra l'altro già dal sindaco di Bologna, tra l'altro Merola, quindi insomma non, una posizione non isolata quella di Balzani, del sindaco di Forlì. Insomma, Puppato, e poi la saluto perché so che ci deve lasciare, non è il caso che di fronte a una... dite siamo arrivati primi, abbiamo perso ma siamo arrivati primi, insomma è una sconfitta elettorale nella sostanza, non è il caso che il segretario si dimetta? Allora, se io conosco un po' di quello che può pensare Bersani, comunque lo sentiremo domani, però guardi... esattamente per le ragioni che diceva adesso l'amico sindaco di Forlì, e cioè che oggi l'Italia viene vista con la lente di ingrandimento, i mercati europei, ma soprattutto la parte politica europea è estremamente preoccupata. Bene, se c'è una figura che in questo momento comunque gli sta rassicurando è certamente Napolitano, ma io credo che un'altra figura che gli rassicuri molto e dal punto di vista anche politico gli possa garantire quantomeno un processo democratico in questo momento da fare per risolvere le questioni che sono sul tavolo, sia esattamente Bersani. Cioè io non credo che Bersani resti nella sua posizione non avendo perso, perché non possiamo dire cose di questo genere, nel senso che è vero che abbiamo ottenuto un risultato assolutamente inferiore rispetto alle attese, per errori evidenti anche, possiamo dirlo, no? Ma al di là di questo, non è che in questo momento il gioco delle teste, taglio questa testa, ne taglio un'altra, sia il gioco prioritario. In questo momento noi dobbiamo far sapere e far conoscere che c'è il partito di maggioranza di questo paese, che anzi il raggruppamento politico che ha ottenuto, voglio ricordarlo, al Senato il 31%, che è un punto in più rispetto al PDL e ai propri partiti minori. Ecco, noi in questo momento rappresentiamo, come dire, una forza politica che deve, per sua natura, perché è arrivata prima appunto in queste elezioni, perché sennò se discutiamo di tutto a questo mondo credo che non riusciremo a stare mai fermi sulla stessa posizione, insomma, no, stiamo ballando sopra le onde, mi pare davvero drammatico, insomma, che lo facciamo eliminando anche i vertici delle figure, insomma, che abbiamo scelto tra l'altro noi stessi, quindi insomma anche ulteriormente contraddittoria questa cosa. Ma voglio dire, se c'è qualcuno che in questo momento rimane al suo posto nel tentativo, tra l'altro non mettendo pregiudizi anche rispetto alla sua persona, insomma è stato dichiarato più volte, voglio dire dicendo adesso troviamo un dialogo per risolvere i problemi del paese, l'unico interlocutore per noi è il Movimento 5 Stelle, perché è l'unico con cui possiamo trovare molti punti in comune che ci possono mettere nella condizione di governare il paese quantomeno per un paio d'anni, diciamo. Bene, in questo momento a Bersani non c'è un altro leader riconosciuto che possa fare un lavoro di questo genere e che ne abbia, come dire, l'autorevolezza e l'autorità. Pupato, il punto è evidente. Una battuta prima di chiudere, poi la saluto anche perché abbiamo una pausa che ci arriva via Twitter con la cattiveria dei 140 caratteri che lei conosce bene. Se Laura Puppato continua a supplicare il Movimento 5 Stelle, finisce che le regalano la felpa col cappuccio. No, io non supplico nessuno. Il problema vero ce l'hanno loro, capito? Nel senso che, no, ma veramente, il problema vero ce l'hanno loro, perché davvero a questo punto hanno lo snodo della matassa in mano e quindi devono decidere se vogliono diventare una forza politica che rappresenta il 25%, dicendo esattamente quali sono le condizioni alle quali accetterebbero di fare un governo insieme. A me pare che invece adesso non sia più il tempo di scherzare, non andiamo a fare i turisti a Roma, non andiamo a fare gli osservatori dell'ONU, nessuno di loro è stato delegato a fare semplicemente il questore d'aula o il controllore. Loro sono lì per fare delle proposte che abbiano senso rispetto a una Costituzione e rispetto a una legge elettorale, che è quella esistente. Allora, siccome ci basiamo sui dati che abbiamo, non possiamo costruire, ripeto, un futuro che io vorrei molto diverso da quello di oggi, se non basandoci sull'attuale situazione strutturale del Paese. A me pare che al Movimento 5 Stelle, come a noi, arrivino gli stessi richiami, che sono quelli della responsabilità, perché il Paese ha bisogno di risposte, non di balletti. Grazie Laura Puppato e grazie a Roberto Balzani, che ci devono salutare entrambi. Buona giornata. Chiedo scusa a Dario Fossi, l'abbiamo tenuto a Jacopo Fossi, perdona, scusi, scusi Fossi, confonde il padre con il figlio, insomma, non abbia pazienza. Ci fermiamo un attimo, abbiamo una breve pausa, poi voglio sentire qualche ascoltatore e poi risentiamo Jacopo Fossi. 9 in punto. Qualche telefonata, Luca ci chiama da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io chiamavo perché rimango sempre colpito dal fatto che sono i partiti, soprattutto il PD, non ha capito ancora cosa vogliono le persone, qual è il cambiamento che chiedono. Sono ancora fermi ai vecchi schemi, per cui hanno avuto l'opportunità con Renzi di gestire il paese con una maggioranza schiacciante, e parlano di democrazia grillo, è quello che, cioè, non hanno voluto far emergere la democrazia, e adesso pretendono da Grillo, che non ha ancora messo piede in Parlamento, di fare delle scelte che non deve fare, secondo me, che sono loro che devono proporre per ora. E la gente vuole proprio qualcosa di diverso, non può pensare di ritrovarsi ancora la Bindi o magari D'Alema nei vari ministeri. Devono cambiare radicalmente, secondo me, se no Grillo alle prossime elezioni prende ancora più voti. Paola ci chiama da Livorno, buongiorno. Buongiorno, io sono un po' emozionata, spero di non impappinarmi troppo. Volevo dire che io ho votato Grillo perché la sinistra, che avrebbe dovuto rinnovarsi, non ha saputo e non ha voluto farlo per le solite vecchie logiche, e secondo me Grillo ha avuto un successo così grande e inaspettato che non sa come gestirlo. Probabilmente Grillo era pronto a fare solo un'opposizione accanita e così, secondo me, sta prendendo tempo e tenendo tutti sulla corda, come lui è solito fare con le sue modalità, nonostante i suoi candidati siano davvero delle persone pure, direi, che ci credono sul serio. Lui sta facendo una politica di presa, appunto, di tempo, proprio perché non sa come gestire questo potere che gli è arrivato e questa responsabilità. Paola, devo dirle che in realtà condivido abbastanza la sua lettura, nel senso che secondo me probabilmente Grillo non si aspettava un successo di questo genere, un successo di queste dimensioni, e adesso gestirla con senso di responsabilità è oggettivamente più complicato che fare l'opposizione dura e pura. Jacopo Fo, lei che ne pensa? Ma io penso che la signora Puppato prima ha detto una cosa molto importante, cioè il Partito Democratico è cambiato perché manda anche il Partito Democratico al Parlamento della gente completamente nuova per 2/3 la signora Puppato rappresenta quello che c'è stato di veramente nuovo nel Partito Democratico, cioè alcune centinaia di amministratori, sono 420 gli amministratori di comuni che non pagano più la bolletta, secondo Lega Ambiente, il rapporto sui comuni che è uscito da poco, e cioè hanno fatto una rivoluzione questi amministratori, sono i portatori del nuovo. Io ho scritto varie lettere a Bersani in passato sul Fatto Quotidiano online dicendo: ma Bersani, perché non utilizzi questa gente che sta facendo i miracoli nei comuni e non diventano loro la tua spina dorsale del partito, il tuo biglietto da visita? Oggi Bersani può fare questo, cioè può portare fino in fondo il cambiamento, dopodiché, ripeto, se lui fa una proposta chiara, secondo me Grillo le idee ce l'ha chiarissime, il Movimento 5 Stelle ce l'hanno chiarissime, e in Parlamento per la prima volta noi abbiamo avuto una rivoluzione che è stata lanciata dal Movimento 5 Stelle, ma che Bersani è stato volendo o non volendo, comunque l'ha raccolta, perché è cambiato il Partito Democratico. Quello che secondo me non capiscono ancora nel PD è che devono cambiare anche la struttura del linguaggio, cioè non possono fare queste operazioni con, come si faceva una volta, mettiamoci d'accordo sui punti programmatici, non è possibile, devono tirar fuori gli articoli di legge e le date in cui approvano le leggi che propongono. In Sicilia sta funzionando, sì. Grillo ha mai detto qualche cosa contro i suoi compagni siciliani o amici siciliani? No. Allora, perché non deve essere? Crocetta dice: ma si lavora benissimo con questa gente. Sì, devo dire la verità, dall'altra parte l'esperimento siciliano è irriproducibile, anche perché, come già si diceva nei giorni scorsi, Crocetta non sempre sui suoi provvedimenti riceve l'appoggio solamente del Movimento 5 Stelle, a volte non solamente di quello, a volte di nessuno del Movimento 5 Stelle e di altri pezzi, anche insomma di una maggioranza d'assetto variabile. La volevo riportare, prima di sentire di altri ascoltatori, sul tema sulla questione di Roberta Lombardi, no? Che mi è sembrato che lei difendesse il tema, lo chiarisco per gli ascoltatori che non hanno letto in queste ore che cosa è successo. Il tema è un post di Roberta Lombardi, che è la neo capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, lo sarà solamente per 3 mesi perché ruoteranno, un post sul suo blog nel quale si parla della vicenda dell'apertura a Casa Pound di Beppe Grillo, e scrive: da quello che conosco di Casa Pound, del fascismo hanno conservato solo la parte folcloristica, se vogliamo dire così, razzista e sprangaiola. Non so se ci sia qualcosa di buono nell'essere razzisti. Mi sembra che stia facendo una condanna violenta, no? E sprangaiola. È sprangaiola, è una condanna violenta? Roberta ha chiarito una secondo che me, non un comprende incidente. Però il punto è questo, lo snodo è questo: che non comprende l'ideologia del fascismo, che prima che degenerasse aveva una dimensione nazionale di comunità attinta a piene mani dal socialismo, un altissimo senso dello Stato e la tutela della famiglia. Ma chi può negare questo? Qui è un fatto storico. Sì, che Mussolini era socialista. Era socialista. Ci ricordano ci ricordano anche qualche ascoltatore su Twitter che l'omicidio Matteotti è già del 24. Io, andando ancora più indietro, nel 22 c'è l'incendio alla sede dell'Avanti, tanto per dirne una. L'inizio del movimento fascista è precedente, è precedente all'entrata in guerra dell'Italia. Mussolini prese i soldi dai francesi per far entrare in Italia la guerra. Allora ci studiamo la storia, ma poi il problema è un altro, è che quello che viene detto, di quello che ha detto la signora Lombardi, è che lei ha sostenuto un'altra cosa, cioè che il fascismo aveva un grande senso della famiglia e dello Stato. Questo è vergognoso. Questo è vergognoso. Fino a quando i media continueranno a usare la calunnia e a non capire niente di quello che sta succedendo in Italia, perché voglio dire, bisogna avere, avere un pochino di rispetto della gente, ascoltare quello che dice. Siccome i media in Italia non sanno più fare questa cosa, se no, quando Grillo diceva 2 anni prima dell'inizio della crisi, signori, sta crollando tutto il mondo economico, che avevamo gli scienziati delle grandi università e delle grandi aziende di consulenza che dicevano no, le azioni sono perfette, sale il mercato, ma l'avete fatta un'autocritica? Ma gli avete proposto una cattedra economia nelle vostre università? Cioè, ragazzi, ma non si possono. Cioè, Grillo dovrebbe avere una cattedra di economia all'università, è secondo l'unico, lei? Allora, scusatemi, mi dite tutti gli economisti, Monti aveva previsto la crisi economica? Draghi aveva previsto la crisi economica? Vogliamo scherzare? Ragazzi, c'era parecchia gente, tra cui anche io, lo scrivevamo con 2 anni in anticipo che stava crollando tutto, ma il problema è che basta guardare le cose, se poi uno vuole deformare tutto è un altro paio di maniche. Allora, io ho scritto un articolo molto incazzato su quello che ha detto Grillo a Casa Pound, ma discutendo sulle sue parole, criticando, secondo me devi stare attento perché, attenzione, quelli sono fascisti, ma che poi si usi la calunnia contro una persona che tra l'altro io conosco ed è squisita, e accusandola di aver sostenuto che il fascismo in toto aveva grande cultura dello Stato e della famiglia, è veramente vergognoso, è un livello vergognoso. È vera anche una cosa, Fo, però parliamoci chiaro, che se una roba di questo genere l'avesse detta Berlusconi, come chiunque altro, no? Mica gliela avremmo fatta, c'è scritto sui libri di storia, però dico, Fo, mica gliela avremmo fatta passare così liscia, insomma, no? Ma io ho sempre detto, infatti, che c'è un atteggiamento da stadio vergognoso nella sinistra. Io, quando c'era Berlusconi, mi invitavano alle assemblee, io mi alzavo in piedi quando era il mio turno di parlare e dicevo: Berlusconi è un cornuto, e tutti ad applaudire. Poi gli dicevo: scusatemi, ma non vi vergognate? Voi applaudite uno che dice una banalità senza motivo. Io sono uno che ha fatto una lotta a sinistra contro questo stile da stadio becero. Noi abbiamo bisogno di usare l'intelligenza, di ascoltare cosa dice l'avversario e poi criticarlo. Ma qui non si critica quello che uno dice, si falsificano le dichiarazioni pur di poter dare addosso. Berlusconi, lo vogliamo dire che ha fatto alcune cose buone? Io l'ho sempre detto, io mi sono complimentato con Berlusconi ad esempio sulla legge che vieta il taglio della clitoride alle donne a spese della ASL gratis nei nostri ospedali, mi sono complimentato quando ho fatto la legge per gli anestetici, perché in Italia i bambini non si dava gli anestetici quando urlavano di dolore, perché siccome Gesù ha sofferto tanto, noi eravamo al 160° posto nel consumo di anestetici in ospedale, dopo il Burundi. Viva Berlusconi, perché ha fatto una cosa buona. Vogliamo smettere di essere col paraocchi per cui c'è tutto nero, tutto bianco? Vogliamo capire che il mondo sta cambiando? È finito quel mondo lì, il 21 dicembre, ci avevano ragione i Maya, è finito il mondo. Siamo in un'altra era, bisogna iniziare a usare il rispetto, l'onore, la parola data, questi concetti, se no l'Italia va a ramengo. E la cosa, da un certo punto divertente, è che a questo punto siamo arrivati alla fine. 9 in punto. Brevemente qualche ascoltatore. Simonetta ci chiama da Trieste, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo dire una cosa. Ad aprile noi avremo le elezioni regionali per eleggere il governatore della regione Friuli Venezia Giulia. Io premetto che sono sempre stata di centrosinistra, spostata più a sinistra rispetto al centro del partito. Io questa volta ho votato 5 Stelle e spiego perché. Perché io Bersani lo stimo infinitamente, quello che non apprezzo è stata la campagna elettorale che ha fatto, perché non è stato chiaro con le alleanze successive che avrebbe voluto avere dopo le elezioni, dopo la vittoria delle elezioni. A me il fatto che Monti, Casini facessero parte di un governo di centrosinistra, ma assolutamente io sono contraria, perché non è più centrosinistra. Mi indispone pure il fatto che si parli oggi di Renzi come leader del PD, perché noi abbiamo fatto delle primarie. Va bene, Simonetta, va bene, ma come ne usciamo secondo lei? Come ne usciamo? Con altre elezioni. Altre elezioni in giugno praticamente. Eh beh sì, prima possibile. Purtroppo, abbiamo capito. Massimo da Bologna, buongiorno. Buongiorno Massimo, prego. Buongiorno, niente. Complimenti per il suo tipo intanto, Spezia. Dottor Spezia, niente, io direi Bersani dovrebbe avere l'umiltà che ha avuto anche il Papa, nella posizione che era il Papa poi, di dimettersi, basta, cioè, devono fare... Bersani come il Papa! No, adesso non offendiamo il Papa in questo caso. No, adesso dico, mi fa ridere perché oggi Stefano Folli firma il commento sul Sole 24 Ore nel quale paragona Bersani a Mosè, insomma, l'ingresso nella terra promessa ha dovuto, insomma, il popolo eletto è passato sotto la guida di Giosuè, insomma, sì, comunque è chiarissimo, dovrebbe dimettersi e che bisognerebbe fare dopo? E niente, quindi deve dimettersi, perché quando uno perde deve dimettersi, i numeri non ci sono, per cui PD e PDL hanno combinato tutto questo ben di Dio che ci ritroviamo adesso in Italia, quindi devono trovare il sistema per fare una legge elettorale nuova e si torna a votare, semplicissimo, andiamo avanti. In giugno, anche lei per il voto a giugno, Massimo. Non lo so quando, appena hanno messo in piedi una nuova legge elettorale, si va a votare, è semplicissima la cosa, 8 punti, questi qui che stanno a predicare il 5 Stelle si decide a prendere la responsabilità, il 5 Stelle è entrato trasversalmente per eliminare questi vecchi sistemi di partiti, per creare una nuova, cioè l'Italia ha un potenziale incredibile, con questi giovani forse ci possiamo riuscire, si parte dalle piccole e medie imprese, bisogna ripartire da lì, ormai la grande industria la sta abbandonando l'Italia, noi dobbiamo ripartire da quella che è la spina dorsale dell'Italia. Grazie Massimo. Roberto da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io contesto il PD quando dice che si è rinnovato per 2/3, ma non è mica vero, perché chi comanda è sempre la solita classe dirigente vecchia, D'Alema, Bersani, la Rosi Bindi. Quindi per me se Bersani fosse coerente e onesto si dovrebbe dimettere e mettere Renzi. E soprattutto voglio dire che Grillo sa benissimo cosa fare. E come mai il PD è lì che pende dalle labbra di Grillo? Grillo deve aspettare, deve dimostrare che questi qui hanno la verità. E solo aspettando si vede come si comportano e cosa le verità che sì, Roberto, io capisco il ragionamento, dall'altra parte le dico quella che per carità è una mia posizione, è che nel momento nel quale ti vota il 25% degli elettori devi assumerti qualche responsabilità, nel momento nel quale sei il primo partito del paese qualche responsabilità te la devi assumere, non puoi rimanere ad aspettare. Ripeto, è una mia opinione, per carità, condivisibile, non condivisibile, non lo so, però nel momento in quale ti è stato affidato questo mandato di rappresentare questo numero enorme di elettori, questo mandato va rispettato. Elena da Salerno, buongiorno. Buongiorno, volevo dire che ho sentito anche la stato prima, 5 Stelle non aveva dimenticato che è un movimento che era aggruppato dentro di sé, ha parlato prima la ascoltatrice che era ex elettrice di sinistra. Io conosco persone qui che hanno votato a Salerno, che avrebbero votato Casa Pound e hanno votato Grillo. Grillo assolutamente non è quello che dice lui, cioè quello che ha disinnescato in Italia il pericolo di avere organizzazioni neonaziste tipo Alba Dorata. Anzi, li ha organizzate, li ha potenziate, li ha aggregate. Li ha aggregate in una protesta unica. È un movimento, non è un partito. Grillo lo sa benissimo, per questo non vuole assumere nessuna responsabilità. Effettivamente ha ragione lui quando dice che gli altri partiti sono morti che camminano, perché li ha messi in una posizione di stallo, li ha messi in una posizione pericolosa in cui non possono fare nulla. Chiaramente si ride una vicenda perché il PD non vuole governare, sì. il PDL lo vorrebbe tanto. Grazie Elena. Abbiamo capito solo parzialmente perché l'audio non era il massimo. Lei sostiene, tra le altre cose, che Grillo ha aggregato i movimenti neofascisti, come per esempio quello di Casa Pound. Ci tiri qualche conclusione brevemente, Jacopo Fo? Abbiamo veramente un minuto. Ha sentito gli ascoltatori? Alcuni dicono, insomma, basta, si voti a giugno, è inutile star là a traccheggiare. Questa cosa di di Grillo che ha aggregato i fascisti mi sembra proprio fantascienza. È vero quello che diceva lei, cioè Grillo ha una grandissima responsabilità e tutti quelli di 5 Stelle ce l'hanno. Io sono convinto che stia succedendo la cosa giusta, cioè Bersani come deve si presenterà alle Camere, io sono convinto che Bersani arriverà con un progetto che valorizzi il cambiamento che c'è stato realmente secondo me nel PD e che faccia un progetto a Grillo, semplicemente che se Grillo lo rifiuta non lo vota più nessuno, perché se Bersani ha la determinazione di fare la sua parte di rivoluzione, qui finalmente cambiano le cose, e se Bersani tira fuori 100 piccoli cambiamenti di legge che danno respiro alle aziende, tolgono la burocrazia, la lentezza dei processi, eccetera, ma sarebbe suicida Grillo. Il problema è che ancora Bersani sta ragionando, cioè almeno quello che si vede, sta agendo su un terreno di vecchia politica. Grillo e il Movimento 5 Stelle non possono accettare la vecchia politica. Siamo in chiusura, grazie Jacopo Fo, grazie Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, grazie Rosa e Leonora al centralino, a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona giornata. Radio 24, la passione si sente. 9 in punto.